Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio svolto presso il Day Hospital Oncologico, Istituto Dermopatico dell'IDI di Roma, con la collaborazione della Fondazione per la Medicina Personalizzata, evidenzia che il paziente che ha un tumore prova tanta rabbia, un disagio spesso non riconosciuto che può ostacolare il percorso di cura. Ne parliamo a Obiettivo Salute insieme al professor Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata e ordinario di Oncologia Medica all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e grazie infinite per questa possibilità di parlare di un argomento tanto rilevante per i nostri pazienti. La rabbia è un sentimento che i pazienti oncologici ovviamente vivono in maniera importante, una rabbia verso qualcosa di sconosciuto che li ha portati ad avere una malattia che ancora viene vissuta come potenzialmente difficilmente curabile, che modifica sostanzialmente i nostri progetti di vita. Ecco, l'attenzione su alcuni aspetti psicologici dei pazienti che spesso non sono riconosciuti dai medici o dalle strutture che curano i malati possono rappresentare degli ostacoli nei percorsi di cura, proprio perché rendono difficile il rapporto con i medici, il rapporto con gli infermieri, ma anche il rapporto all'interno della propria famiglia. Riuscire a educare i pazienti, a incanalare questo sentimento verso un profilo positivo rappresenta l'obiettivo del nostro studio condotto su oltre 300 pazienti, in cui è stato dimostrato che questo sentimento è prevalente e, quando non riconosciuto e trattato, sfocia verso la depressione, che è un elemento sicuramente negativo nella valutazione e nella capacità del paziente di seguire percorsi tanto complessi. Professor Marchetti, è proprio dall'osservazione della pratica clinica sulla rabbia nei pazienti oncologici, la Fondazione per la Medicina Personalizzata, di cui lei è presidente, ha promosso una campagna di informazione. Ce ne vuole parlare? Abbiamo iniziato una campagna di informazione non solo verso i pazienti, con un opuscolo dedicato al riconoscimento di quelli che sono i sintomi della rabbia, al non vergognarsi di esprimere questo sentimento ai propri medici curanti, ma soprattutto abbiamo iniziato un percorso attraverso una serie di incontri itineranti in Italia, quindi ci saranno una serie di convegni locali focalizzati sulla rabbia e sulla modalità di gestione di questo sentimento. La rabbia, abbiamo detto, che non è sempre negativa. Se viene utilizzata in maniera positiva, se viene incanalata nel determinare una maggiore grinta, una maggiore desiderio del paziente di vincere una malattia tanto aggressiva, rappresenta una risorsa straordinaria. Ecco perché diviene importante riconoscerla e educare il paziente e i medici e gli infermieri che lo seguono a indirizzarla verso la giusta direzione, quella di riuscire a sconfiggere questa malattia che tanto ci preoccupa. E per oggi è tutto, tra poco vi aspetto per la diretta in Facebook insieme al professor Claudio Borghi. Parliamo di cuore, parliamo degli amici del nostro cuore. A tra poco vi aspetto, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog.